settore e cosa in generale? Assolutamente, questa testa del COSIO, microfocardioide della COSIO, del dinamico, della professionale della RCF, di quelli che usano per fare altri tipi di cose. Uno l'ha già fatto, ha quasi la stessa forma della testa dell'MC60, è un pochettino più grande. Vedi, io per dire, quando ho utilizzato questa radio qua, questa K5005, ci ho messo subito il più 5, però ho notato che va bene anche con questo microfono, quindi se non le fai le prove non lo sai. Mentre invece un altro più 5 che ho piazzato in questa radio è andato male, vuol dire che è stata cambiata la capsula. Io quando mi busco un altro MC60 faccio il lavoro con quel tipo di coso, di capsula, tutto il blocco e tutta la testa, non devi fare altro che avvitare, cioè non devi fare grosse modifiche, devi soltanto mettere dei componenti di adattamento e basta, c'è un circuitino da leggermente modificare, ma questo me lo tengo tranquillo così. Fabri, avanti tu di nuovo. Prova un attimino, che forse non vale, non so cosa dirti. Vedi perfetto, sino all'altro giorno, sembra che stai strappando, non è che stai caricando troppo di potenza, no? Ma non credo, perché il segnale non è più forte degli altri. Abbassa il Mickey Game. È troppo alto il Mickey Game, dai, abbassa appena appena, Fabri. Ecco, abbassato, devo abbassare un altro po'. No, per me così va bene, tio. Anche per me. Ti abbiamo sentito, Gianni, poc'anzi, quando sei entrato, però eri molto basso di radio. Ciao Gianni, riprendi. Sono basso. Adesso hai fatto l'entrata a levare e l'uscita, ti lascio immaginare, perché stavo abbassando il radio. Scappa, no, perché sto provando un microfono che ho messo, dai. Con Claudio l'abbiamo già visto, voglio sapere un vostro parere, come sta uscendo. Basso, boh. No, adesso stai andando bene, però quando mi hai chiesto se stavi uscendo basso, hai fatto proprio l'entrata forte e l'uscita quasi alla fine del discorso, stavi andando a abbassare il radio. Va bene, va comunque. Vabbè, Luca, come va? Ho ripreso, Musone mi stava dicendo cosa. Chi è questa mosca? La mosca, quella che non riesce a togliere davanti al naso. Voglio dire una futtiga. Cos'è Gianni? Stavi chiamando? Gianni! Per un attimo, se ti vanno una cosa. Sì, ho rimesso il 60, Ok. Così tagliamo la testa al toro, ma intanto per me non c'è venuta. Va bene anche l'altro. Va benissimo, va benissimo, poveretto Claudio, non cambia, va bene. Io non sto ascoltando bene, è troppo rimbombata la sua modulazione. Perché è troppo alto il radio? Chi? Io c'ho la radio alta. Io, perché sono troppo alto il radio sicuramente, abbasso. Icca, abbassa. Va bene così, guarda, 1, 2, 3, prova di microfonica. È troppo forte per me. Abbassa un po'. E allora devi cambiare la colonnina. Ma se devo cambiare la colonnina, anche se lo sento benissimo, se ti sento male, devo cambiare la colonnina io. Allora, ti sto ascoltando con una cassa a Sony, da giù di tutto. Social. No, vabbè, c'ho rumore anche io in casa. Ma proprio c'è rimbombante con la modulazione, Tino. Ma se io non lo ascolto bene, Gianni, proprio quando ho passato lo sento bene, Claudio lo ascolto benissimo. Vediamo un po', Roberto. E a me mi ascolti male, sicuramente. No, te ne ascolto bene adesso, ma prima guardi Kifu, Robert, ma Kifu veramente. Luca era un altro tipo di microfono, sicuramente non c'ha niente a che vedere con questi tipi di radio. Vorranno solo ottimizzati come hanno fatto quello di Claudio, ma non mi interessa, sinceramente io una volta che ho trovato il giusto abbinamento non tocco niente. Quello era soltanto un esperimento per provare Riccardino e Buco. Io utilizzo o questo o l'altro, la Dunis, che mi avete detto che è pure forte, più forte di questo. Vabbè. Dimmi Riccardino. Ma alla fine è già passata la stella, il satellite. Stavo guardando, non mi dice alle 21.54, mi dice alle 20.30 e poi mi dava domani alle 18. Oh, vabbè, scusate, vado via che è pronta la cena. Ciao, alle prossime. Ciao Tino, ben sentito, dai, buon tutto. Dai, facciamo girare. Riccardino è passata alle 20.43, però c'era troppa luce e non si vedeva. Andava in una zona un po' più riparata, dove c'era il tramonto un po' già pronunciato, magari l'avremmo visto molto meglio. Però volevo sentire a Fabrizio. Fabrizio, di nuovo, prova un po'. Guarda un pochettino se così va bene. Fabrizio, non vorrei deluderti, però non sei tu, dai, ti ho ascoltato sempre molto meglio. Oh, non lo so. non ho toccato niente, ho solo abbassato un po' il mitigate. Ma cos'è, un 44 quello fa? È il solito chiuso io. E a quanto ce l'hai il mitigate? Un po' più di due. Ah, e che cazzo, io lo tengo a uno. Proprio a uno spaccato. Mettilo meno di due, Fabri, come lo sto usando io, meno di due. Così ho abbassato un meno di due, come ti sembra? Molto meglio, a parte va bene le ventole che si sentono, ma quello non è un problema, ma è molto più chiara. Vabbè, io non lo so, l'ho toccato, non me ne sono accorto. Adesso sei tu, Fabri, come ti ascolto sempre, bene, forte e chiaro. Va bene, dai, sento cambiano un po' di condensatori, a dopo. No, ma va bene così, meno di due, io la tengo sempre a 1,8, meno di due. Io la tengo a meno 1. E tu sci perché c'hai la voce da Gabo Bugnetti. Sì. La voce di Mario Mazzo, cioè. Vabbè. No, mi baragona un amico mio, gatto, la voce di Mario Mazzo, ma che dire, sono due cose completamente diverse. Era una battuta, mica ce l'ha uguale. Quella mia di Mario era proprio un boccione grosso. Ma ascolta a me invece, cos'è che ti volevo dire per Riccardino? Quel Turner non si può fare niente per metterglielo su uno di quelle radiobasi CB. Sì, bisogna mettere una cosa, una capsula, senza capsula, bisogna cercare qualcosa, dai, per adattare, fare delle prove. Il circuitino, credo, non so se Fabri l'avevi sistemato il circuitino di amplificazione. No, nemmeno, ci manca la capsula, l'avevo tutto ricablato, lì sarebbe da mettere la sua capsula e poi riprenderla in mano e vedere cosa c'è, magari c'è qualcosa partito o il laccio stato. E dai, mi da trovare un altro, Mario, vedere, fare delle misurazioni e vederlo, Fabri. Per il momento, Riccardo, tienitelo di lì a riposo, non occhio alla ruggina, che non si formi dell'umidità se arrugginisce con la cromatura. Ok, datemi due minuti, devo fare una telefonata e riprendo subito. Eia, va bene, va bene. Ok, no, io qua ce l'ho tutti i cablati, anche quello che il Turner P2 è cablato lo stesso, solo ci vuole la batteria. Ho cablato col cavettino schermato come quello tuo, ma si vedeva, funziona benissimo qua, funziona benissimo il Turner P3, funziona benissimo l'MB P5, boh, sarà la mia voce, cosa volete vi dica. Comunque Fabrizio, andava benissimo, adesso vai, lascialo così. Vai Gianni, doppio. Cazzo, ma avevo ragione, 9. Minchia, le 9:10. Cazzo, per quello c'avevo l'angurino di stomaco io, che. Beh, anche a me mi sanno, per chiamare a scendere giù, va. Mangiamo un po' leggeri oggi, beviamo meno vino, domani ci facciamo questa visita, ma vabbè, devo rompere i fattori. Beh, non devi fare analisi, solo spirometria, elettrocardiogramma, quella roba lì devi fare. Allora, non ci vado io all'ospedale, cazzo, mamma così, vado a ripetere la famiglia esame del sangue. Ma non ci sto manco pensando. Prima che quegli esami lì ce li hanno spostati, capito? Sì, facciamo anche il coso, noi, l'audiometria e il drug test. Sì, come me, come facevo io. Faccio cadere la matematica, spirometria, la buffia in capo, tu ti dai un pulsante in mano, e tu, anzi, dove va il pulsante, tu vai i buffi, e due chiccia, e tu vedi sì. No, a noi ci mettono dentro una cabina, ci mettevano, perché questo qua neanche ne ha, figurati. E ti fanno sentire dei rumori dalle più alte ai più bassi, no? E tu ogni volta che senti ti danno un pulsante e schiacci, capito? E così come noi, a me senza cabina, che buongiorno è molto, le cabine si sono tutti bussati. Positivo. E per cosa voi fate quello, l'audiometria, per cosa la fate voi? Non ci vediamo, c'è gente che è rimasta sorda nel mio lavoro. Come va in sala motori? Prova a entrare a Monte Oro tu. Io a Monte Oro entravo con la cuffia in testa, la papallina, e in più le cuffie belle insaccate, a volte quando è d'inverno. D'estate si alza la cuffia con i cosi, i tappini nelle orecchie, quelli in lattice, e la cuffia. Ma stai scherzando? Scherzo ne ha il rumore di motori. Scusate se entro così di botto, vado in carica e ci sentiamo più tardi. Va bene Riccardi, stai sereno e tranquillo. Hai già sentito Fabrizio, vedrai che domani la radio torna come nuova, non ti preoccupare, ok? Ciao, buona cena, a dopo. Vai Massimiliano. Ciao Riccardo, buona carichetta, buon tutto. Ci sentiamo se non dopo domani, no? Ok, ciao. Ehi, ciao a tutti, a più tardi. Subito Massimiliano, che noi la facciamo. Aspetta. Siamo soggetti a soprattutto chi lavora nei grossi impianti come Monte Agnese, Tronco Reale, chi ha gestito come me la parte di misurazione, quindi andavo al Monte Oro, cazzo, sono delle poppe verticali a 4 metri, ma stai scherzando, non fa niente rumore, ma rumore però. Non lo sapevo, e vabbè, noi perché usiamo i martelloni degli escavatori, queste cose così, dai, ecco perché ci fanno questa cosa, e in più vabbè il drag test per vedere se fai uso di sostanze superfacenti. E quello hanno iniziato a farlo dopo, l'ultimo anno che sono rimasto io al lavoro. L'ultimo anno sono rimasto io al lavoro, è arrivata una circolare che praticamente c'era da fare anche quello. Noi ci facevamo tutto lì a Caniga, all'impianto di Caniga, veniva il medico del lavoro da Cagliari, capito, con tutta la... è praticamente un ufficio, era adibito a ambulatorio, e quello, poi gli era venuto il GDS, prima facevamo analisi del sangue e urine da dottor Sale, di dove abita Gianneo Pirru, e ci andavamo, poi lui mandava tutto a questo qui, praticamente i referti di ognuno, e quando facevamo poi tutto il resto con lui ti dava il referto finale, capito? No, noi facciamo tutto lì da coso, di fronte al bar di Soria, là, da Canalis, capito? In gamma quel medico e si voleva pagato bene, però ti faceva una visita spaventosa, se non eri idoneo non ti faceva l'idoneità, infatti lo gonzo, era proprio pignolo, questo invece dopo allo stato bravo, cioè tu non puoi fare una audiometria senza la cabina, non puoi, cazzo, io metti un po' di cuffie, intendi la gente sedendo, scherzando nell'andito, io quella non è audiometria, no? Quella è giusto per far vedere che l'ha fatta, va tutto lì. No, noi il coso lo facciamo sempre, il drag test lo facciamo sempre, noi operatori, autisti lo facciamo sempre. Invece la parte dei muratori, tutta quella zona, tutta la parte lì, i geometri, quelle non le fanno. No, io non ne ho mai fatto di quello lì, però so che c'era l'ultimo anno, l'hanno messo in atto perché qualche collega che ancora è in servizio era, insomma, c'era qualche ex tossicodipendente, capito? E quindi chiaramente l'azienda ha voluto fare queste cose per non far vedere che facevano solo a loro, allora l'hanno fatto a tutti, io non ci ho mai fatto la verità, io facevo solo quelle analisi normali e basta, sangue, urine, spirometria, il coso alle orecchie, l'udito e basta. Ma si vede, io anche il nostro era molto pignolo, io ho visto gente non essere idonea e uscire da dentro la visita in lacrime, hai capito? Dai, in lacrime, da dire proprio prendo la braccetta e quello che è successo, non mi ha fatto idoneo, adesso mi arrivo a lettere di licenziamento, licenziati, cioè non c'era niente da fare. Se non avevi l'idoneità da lui, il licenziato, due o tre quando ero in servizio sono stati licenziati perché non hanno passato la visita medica. No, vabbè, da lui era diverso, non lo possono neanche fare, attenzione. Se non passi l'idoneità, allora intanto vabbè, ti fanno fare altre visite più specialistiche, diciamo così, da. E in più ti dovrebbero passare a un'altra mansione, ok? Ti passano un'altra mansione, se tu non sei in grado di fare quella mansione che ti abbassano loro, perché ti abbassano la mansione, se poi non sei in grado di fare quella, ti mettono i 15 giorni di prova, se non passi quelli ti possono licenziare tranquillamente. Signora, da noi non è così, da noi è un contratto regionale, era un contratto regionale, io non ci sono più, è un contratto regionale attuale in vigore, i conduttori d'impianto con la specifica che avevano, solo conduttori d'impianto puoi fare, a meno che non abbia un diploma specifico di geometra o di perito industriale o di perito chimico o di addirittura biologo, e quindi potevano darti un'altra mansione d'ufficio, o ragioniere o qui o là, ma perlomeno di quelli che tipo io nella parte dell'Angrona era l'ultimo della terza media, c'era solo uno di Cagliari che mi sostituiva molto quando io non c'ero, ci scambiavamo, però aveva il titolo lo stesso che avevo io. Gli altri conduttori di impianto non potevano darle nessun'altra mansione, quella era la tua mansione e non puoi fare altro, non ce n'era un'altra mansione da noi, Massimiliano, da voi è diverso, capito? Per quello che sto dicendo. Infatti a Gesino Pano già è vivo il vegeto, io l'avevo già detto perché era nella mia squadra, e tutte le volte che lui, perché il sabato i turni che facevo fare io praticamente era a turno un sabato uno, un sabato l'altro, una domenica uno, una domenica l'altro, quando toccava a lui io tutti i lunedì avevo grossi ma grossi problemi, soprattutto la domenica, o si lasciava la pompa in spente, o non chiudeva i cancelli, o non prendeva le vetture, o cose normali, di normale amministrazione. Io un giorno l'ho chiamato in ufficio a Sorso e gli ho detto: questa è la situazione, si sta verificando questo, Gesù, hai problemi, hai qualche amnesia, cioè, hai qualche vuoto mentale, non ti stai ricordando le cose, non eri così, come mai? Non lo so qua cosa mi sta succedendo, non lo so qui, non lo so là. Quando ho passato, quando abbiamo fatto la visita medica, mi hanno trovato l'Alzheimer. Sì, cavolo. Massimiliano, tu sei pure zendi. Ma io già me ne ero accorto, ne parlavo col mio responsabile di zona, col responsabile di distretto, che abita lo stesso lì ai punti. Capito, non ti posso dire il nome qua, comunque sicuramente in vista lo conosci. E mi ha detto: ma secondo te, io c'è Antonio, perché siamo Antonio, secondo me c'è questo, c'è qualche problema, c'è qualcosa che non va. Le relazioni, no? Che poi ogni conduttore di ogni impianto a me mensilmente mi deve dare le relazioni mensili, di tutti gli otto, compreso lui, quindi di sette le relazioni erano perfette, qualche correzione facevo, cazzata. La sua un casino, dovevo rifarmela io da capo, proprio poverino, per non farle più grande di me, eh? Io ho 60 anni e lui mi pare che adesso ne abbia 62, 63, era qualche anno più grande di me. E lo chiamavo sempre, lui, cazzo, guarda il casino che hai combinato. Cioè, se questa lettura ieri era 1200 metri cubi, tutta la settimana è 1200 metri cubi stabile, non può passare a 2004, 2006, c'è qualche problema, Gesù, hai letto bene, sì, guarda, tranquillo, qua, andavo a vedere io, sempre 1200 metri cubi era d'ingresso in depurazione, due acqua riflo, capito? C'erano tutte queste cose che io avevo già riscontrato, e alla fine avevo ragione io, quando ho passato la visita, dalle analisi, da tutto, l'interrogazione stessa che le faceva, perché il medico a noi ci interrogava anche, no, come va, come non va, qui là, lui era sempre spento, mentalmente era spento, e hanno trovato l'Alzheimer, 15 giorni l'hanno licenziato. Purtroppo è così, uno quando va a lavorare deve essere idoneo, non c'è niente da fare. Beh, Claudia, io me ne vado a mangiare la pappa, ragazzi, sono già le 9:20, 9:15, e magari, non so se riaccendo dopo, non credo, però va bene, se c'è qualcuno di passaggio così andando a dormire, posso fare due passaggi e basta. Dai, ti saluto momentaneamente, c'è Luca, c'è Gianni Doppio Room, c'è Fabrizio, mi sa, in ascolto ancora, Roberto, non so che fine abbiano fatto. Ti saluto, Claudia, saluto a tutta la ruota, dai, ci sentiamo dopo o domani, ok? Gappa, dai, sì, io ho chiamato a tutti, ma non ho risposto a nessuno, quindi sì, andiamo. Quindi io saluto tutti, Fabrizio in primis, a te Massimiliano, Roberto che doveva telefonare, Gianni Doppio Room, Luca, insomma tutti, un saluto circolare a tutti, anche io vado a cenare, dai. Ci aggiorniamo, ciao Fabri. Ciao a tutti. Hola, 1, 2, 3, prova, hola, 1, 2, 3, hola, hola, 1, 2, 3, prova, hola, 1, 2, 3, prova, hola, 1, 2, 3, prova, hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Attenzione 10, attenzione 10 per una prova radio. Brecco, brecco, brecco, brecco, brecco, brecco. Ce ne sono sul 10 per una prova radio? Prova Fabri. La ragazza, aspetta che abbassi il volume, giù mi crepi, vai. Prova. Allora, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, volevo vedere come stavo uscendo. Ah, ascolto bene. Ah beh, forse abbiamo risolto il caso, altoparlante non riscalda più. Ah, sempre quel famoso volantino. Adesso... sì, sì, stavo provando, dai. No, esce bene, esce bene. Va bene, vediamo un po' se la cassa... No, non sta scaldando, dai, era il problema di un condensatore. Volte a volte la cosa ti fa uscire di testa, ma... E ci devi studiare su ogni volta, signor Baracchi non conosce, ogni volta ci devi studiare tutta la circuitazione per riuscire ad andare a cercare i componenti per vedere come sono polarizzati, come devono lavorare, come cazzo sono cose, non agi più bene. Come ti dico, va, io come l'ho pigliato, la ragazza è uscito tanti anni fa al figlio una striscia verticale così in me per computer, le ho cambiato la cosa, un pannello da posto, e adesso da poco è uscita un'altra riga, è passato qualche anno, è una riga verso sinistra, però cosa la parte sinistra verticale sempre, facciamo un altro pannello ancora da cambiarli, adesso lo sostituisco così c'è questa riga, però non capisco che matta, allora ho aperto il computer vicino al connettore dell'LCD, c'è una bella macchia nera, la scheda madre. Ho capito. Vista, senza, adesso potevo lasciare le luci, ma dico lo sapevo, se lo volevo cambiare, proprio per essere questa riga, non va più, non capisco che matta. E chi è? Falcone. Luca. Dimmi. È la piccola. Chi è? Com'è che ti arriva? Io sto uscendo un bel fa, Stavo fischiettando. Se smetto di fischiare come sto uscendo. Così, sto del vizio. Sto uscendo un bel 9.10, 9.15 qua. Sono salito un pochino, dai, fammi contento. Dimmi anche una bugia. Ehi, affa, è salito un bel, non un pochino. No, no, non sono capito, qui stavo parlando, adesso lo saccato di pista. Aspetti un attimo, scusa. Ho detto che sei salito un po', 9.10, 9.15, sì. Sono contento, chiedo scusa che non ho ascoltato, ma ti saluto tutti, non so neanche chi siete. Là, c'è Fabrizio. Fabrizio, io e basta, non c'è altro nessuno. Sono anche io. C'è anche Riccardino. Luca! Ehi, ya! Guarda come va adesso, 1, 2, 3, prova! Nulla già, basso! Cosa? Devi andare a uscire l'altro, poi stiamo a base di colpo! Prova! 1, 2, 3, 1, 2, 3! No, no! Stai uscendo, però devi uscire più forte già! Sta uscendo! Non so, fammi spiegare che non trovo adesso questo microfono di Gianni. Sale e scende di modulazione. Ora, ora, ora. Che non sia lo spinotto, boh. Guarda, 1, 2, 3, guarda a vedere. Ora, ora, ora, guarda. Lo spinotto è toccato. Eia. E allora lo spinotto, siamo anche fino a un mezzo staccato. Vabbè. Ma cos'è sta cosa della riga che non riesce a togliere? No, ti spiego un po'. Allora, se già sono morto qua, no? Qualche anno fa io avevo cambiato il pannello completo della mia ragazza, poi usavo il filo, usavo il figlio, no? E usavo questa riga verticale, che come il pannello è tutto a posto. E poi da poco, ma questo insomma è tanti anni, almeno 2, 3, 4 anni, forse di più. No, vabbè, 3, 4 anni, io fai 3 anni, là, avanti. E ieri è acceso il computer e usciva questa... questa riga verticale sulla sinistra però, non al centro. E dopo il danno, certo ce l'ho altri i pannelli. Si cambia il pannello e non mi dà più vidiata. Ho però smontato e sulla parte del connettore lì è aderito. Sulla parte del connettore, ma cosa si fa? Hai misurato più la dell'aderimento? No, ci sono dei microcomponenti, cosa mi sono bruciato. Non è che ti passa adesso l'illuminazione lì per caso? No, assolutamente no, è LCD, non c'è l'inverter questo qua il computer. Ah, cazzo, La scheda, secondo me, ma già abbiamo fatto quel problema lì. E poi ti spiego che anche le cerine tutte in mezzo rotte, no? Boh, questo penso che ci sia nato qualche vite dentro. Ma quando l'ho smontato, ma ti vedi la mia caduzza, però non riesco più a trovarla. Ma il signor Master mi sente adesso che sono con un vintage? Ah sì, cosa stiamo facendo? La gara dei vintage in questo canale? Quanto per l'accesso, signor Riccardino Alfa 21? L'aspetto solo che per questione di passaggi stessi non sono riuscito a salutarla di persona. Va bene, la saluto anche io, ciao Fabio. Ciao Riccardo, bella modulazione chiara come sempre. Sì, perfetto. Luca, la fa giro computer, va. Sì, infatti l'ha detto, non si può fare niente, ma funzionava però prima, eh. Allora, poi la canzone, ci vedeva questa riga, sì, funzionava il computer. L'ho portato qua, non l'avevo avviata. Perché qua il computer rimaneva sempre aperto, poi c'erano le cerniere mezzo rotte, fa, capito? Ah, ma la macchina buona? HP, Per carità, mai più HP, vita mia, mai più. Infatti, io ho l'Acer qua, ce l'ho anni e anni, è un bisù. Guarda, ho l'Acer C300 che è primo PC tablet, praticamente tu alzi lo schermo, lo ruoti, glielo chiudi addosso, sparisce la tastiera, quindi un pennino lo usi, io non so quanti anni ha, io penso che abbia gli anni di mio figlio, tipo 16 anni. Vabbè, io c'ho questo qua, me l'ho regalato, è un bicho, non ha mai avuto problemi, anzi guarda, piccola balla, una palla grande, mi sa hanno problemi, ogni tanto si inceppa, si blocca, lo spengo, tanto lascia da riparte, non so cosa abbia. Poi nel resto non ho mai dato problemi di video, di niente, di audio, nulla, perfetto. Lucrezia, come va adesso? Pura già, sparisci il radio. Anche adesso sta sparendo, guarda, se l'ho aggiustato adesso, guardando una cosa, guarda a vedere se adesso sparisce. Sì, guarda, dopo ci vediamo a Fabio, fallo senti a Gianni. Guardi, non è che c'è la batteria a caricare il microfono, che all'inizio parli, poi c'è un punto, e zitto. Ok, guarda la batteria, ecco che queste batterie sono tutte strappe, lì, ogni tanto me ne è capita una che mi fa qualche scherzo, questa è la 9. Fatto lui, hai visto quei microfoni che si usano universale, quelli che ti metti la clip nella cintura e c'è il microfonino praticamente appeso alla camicia, è presente? No, fa quale? Quei microfoni che si usano, anche TV, che hanno il microfonino nel colletto, no? Poi dietro hai il trasmissore con l'antennino. Ah, sì? Io tutto lì, prendo, metto la batteria, le chiudo il letto, lì a strippare, non ha nessuna frequenza, non becco il segnale, lo controllo, lo misuro, lì faccio tutte saldature che sembravano un po' panche. E prendo, lo rismonto, lo pulisco, lo controllo, ma a me sembra che stia uscendo, invece non esce, non arriva, e attacco questo, con quello, attacco quell'altro, mica pensavo alla dura, c'è il nuovo di secca e anche l'ultima serie, no? Sarà la batteria nuova di pacca, con scadenza fra 5 anni, tra l'altro, messa lì, quella fa da misurare, erano 6 volte e mezza, non 9. È un casino. Ah, sono lì, per niente, ci ho voluto a capire lo stesso, molte volte mi l'ha avviata, molte volte non me ne dà, adesso l'ho acceso e è ripreso a funzionare. La scheda video è andata, però vai, non è che si spegne, una volta che lo accende che parte funziona. Ascolta, ho avuto due HP, sarà una decina anni fa, forse un po' meno, sarà 7-8 anni fa. Due HP, uno di quello dell'altro, stessa serie, con telecomando, fighissimi, multimediali, con telecomandino prendibile, accendibile, spegnibile. Potevi muovere il cursore, cliccavi, senza toccare la tastiera, addirittura prendi il tastino del telecomando, gli davi il comando vocale, si riconosceva la voce, tutti e due con lo stesso problema, il processore video. No, per carità, no, niente da fare, no, boh, questi computer qua, è un casino, l'elettronica è un casino qua. È un casino, basta una cazzatina. Chi c'è in mezzo veramente, guarda. Lo sa solo lui, vabbè. E dove vuoi qua, purtroppo. Molte volte si possono aggiustare, molte volte no. E vabbè, vediamo un po' Gianni ha risolto. Gianni non ha risolto, Riccardo, lo riprendi. Sì, riprendo io, va bene. Comunque, sono qui. devo prendere il vintage. Ma che facevo così in basso gli orari? Infatti, perché adesso un palmare per il vintage, non ho l'MC80. Grazie, avanti. Ciao, ci dovrebbe essere anche Tino, così facciamo una prova, va? Ehi, io sono qua, eh. Allora, 1, 2, 3, prova, uno questo qua e quella radio là. Fabri. Dimmi, Riccardi. Comunque, l'unica cosa che funziona, tipo, se voglio parlare con il Kappa sul 10, devo praticamente usare la banda laterale. E poi mi facciamo, dopo il fisico qui continuo, delle due prove, domani mattina tu glielo fai portare a tuo padre da cosa, se io ce la faccio in mattinata, devo fare delle cose, perché poi domani sera, se ce la faccio in mattinata può essere che poi glielo riporto, do un'occhiata, se no me lo tengo un po' e glielo controllo, perché adesso mi stavo liberando di alcuni apparecchi che ho qui sul banco, e adesso ho chiuso questo qua, e poi lo controlliamo quel K, insieme a fesseria, dobbiamo vedere se non è anche la parte della... Non lo so, devo controllarlo, così non lo so, devo vedere, ma non ti preoccupare, te l'avevo detto, già lo risolviamo il problema. Sono rientrato io comunque. Ehi, ciao Roberto, vediamo Tino se c'è, Tino. Sì, sono qua, Fabrizio. Ah, dimmi se ti piace questa modulazione, praticamente oltre che avergli riparato, gli ho fatto anche una modifica per spingere un pochettino di più. Sì, vabbè, non vedo i picchi di modulazione, perché sto guardando aspetta che cambio radio, dai. Sì, va bene, comunque saluto. Scusate un attimino, dai Fabri, siamo qua. Un attimo che sono... E tu cosa hai fatto Fabri? Ma se ne è accorto. Non lo so, questo è 9.35. Ma è ancora basso, Il sensore tra il piede e la riviera. Ti credi? Adesso il tuo segnale come dovrebbe essere, cacchio. Infatti era assurdo come facevi così in basso e tu. Ok, ciao Riccardino, ciao Tino, poi chi c'è qua? Ciao, Roberto. Cioè quindi Fabio adesso mi uccide. Ma Fabio è vicino a 200 metri da me. Adesso quasi 4 parte. Va bene, ciao Fabio, ciao anche Riccardo. Fabio, sei Santiago 5 oggi, hai migliorato un pochino, però potresti fare meglio. Qua nella mia zona siete un po' che arrivate alti, capo, ho dovuto rinunciare a mettere l'antenna dove volevo perché purtroppo nell'impianto elettrico qualcuno cambiando il caldabagno aveva rotto i corrugati per i cavi, dunque il cavo non passava più lì. Ho mosso un po' l'antenna, l'ho messa insomma in una situazione un po' migliore, però meglio più si muove va sul tetto. Va bene, ma diciamo che sì, 5 modulati, la radio te la do 3.5 o 4. Sono contento, figurati Roberto, e tu cosa mi dici? Radio 5 segnale 9.35, come deve essere il minimo segnale per legge che deve essere a queste distanze così ravvicinate. Il minimo sindacale l'ho toccato questa volta, là, sono contento. Luca, io sono sempre uguale da te. Prova! Allora, sta, va, papà. Sì. Ma adesso l'antenna? L'ho passata, prima era dentro casa praticamente, adesso è sulla ringhiera, però non riuscivo a calarci le stazionali e allora ho dovuto fare una modifica. Praticamente l'antenna c'è la parte del baracchino, la ringhiera c'è la parte del baracchino con 300 pico farad. Sto rientrando. Ho capito, va bene, fa di lusso. Tino? Via. Prova. Ci sei Tino? Sì, dai, prova. E che c'era Walter? Allora aspetta, vediamo un attimino. Allora, guarda un attimino come va di modulazione. Sì, già va bene, Fabri. I segnali non sono a fondo scala adesso di questo apparecchio, Vabbè, io sto usando l'altro, sono 10 watt, 15 modulati, No, con questo mi stai arrivando 9. Ma con l'altro ti affondo. Non lo so questo apparecchio, perché sulla ricezione sono ne ho voglia di attaccare il generatore per vedere se il ricevitore è sensibile, ma credo di sì, oppure se c'è da tarare lo smitter, non lo so, questo non te lo so dire. Comunque, lì la parte era un problema su tutti dei condensatori in perdita, c'erano, tutta sulla parte delle cose, era lì C4 e un praticamente è un doppio, è una specie di opuno operazionale, dai, e lì era tutto a casino, aveva tutte le tensioni sballate. E poi c'era il 1905 che lo stesso aveva tutte le tensioni incasinate e bruciava gli altoparlanti, era il condensatore che serve, che va messo sull'altoparlante, che era anche quello partito, la vecchiaia delle radio. Dimmi una cosa, il watt quanto ce li hai? Adesso quanto sarà? Adesso sono a metà, forse sarò 7-8, intorno, non lo so quanti sono esattamente, non lo so esattamente, non ho attaccato lo strumento. Fammi abbassare, abbassare il watt, perché sei stabile, capito? Non hai picco di modulazione, magari abbassando il watt aumenti anche di picco. Vabbè, così è basso, probabilmente adesso vedrai qualcosa, Guarda con 20 vai, Va bene, così va bene, lo tieni in questa posizione e poi te lo regoli. Così non si può fare, è già un miracolo che sta andando. Allora, così è migliorato anche la radio, secondo me. Possiamo vedere se cambia? A fare che cosa? Alzare il watt? Aumento il watt? Sì, aumentali. Adesso sono così, adesso sono a mezzogiorno. Aumenta ancora? Adesso sono a 3/4. No, abbassa, perché vai, praticamente il segnale ti rimane 9,20 fisso, mentre invece quando li abbassi fai da 9,20 e sempre picchi in abbondanza, come piace anche a me. Va bene, ma già va bene, dai, era, pensavo di non riuscire a metterla a posto alla fine, troppo, invece stavo per abbandonare, devo essere sincero, non avevo voglia di buttarci altro tempo a cercare, perché devi solo cercare, poi, capito, seguire e cercare, smontare e controllare, mi sembra che vada bene. Va bene, me lo metto in macchina e poi te lo do. Sì, quello è mezzogiorno, cioè, dormi per me ne accorto un bel qua, Sì, per ora rimane fisso la portante. Sì, si vediamo un po' tutti, però a me ha fatto proprio, cioè, l'ho visto proprio spostarsi in avanti, ma velocemente. Guarda, l'ideale sarebbe che lo metti alle 11. Allora, così sono alle 10. E col picco di modulazione, per dire, adesso fai da 9:10 a 9:20. Va bene, allora poi te la regoli tutti, no? non so, te la provi, però sembra che vada, dai. Sì, buono. Fabrizio, dimmi tutto. Io ho notato una cosa, forse loro non se ne sono accorti, come è alzato la potenza e è alzata anche la radio. Rimettila alla massima potenza, alla massima, diciamo, quella, l'ultimo passaggio più alto. Allora, adesso sono così praticamente, intorno alle 10:11. E quando alzi così si solleva di un peluzzino di qualche debile la radio. Perché sto tirando sulla potenza, adesso sono più di 11. No, vabbè, il segnale c'è sempre 9:40, qua da 9:35 passa a 9:40, è fortissimo, però l'ultimo passaggio di un paio di dB guadagni di radio, di più forte. Non lo so, sono, cosa ti posso dire, va bene, dai, l'importante è che era quell'apparecchio lì, va bene, l'importante è che stia andando. Alla fine mi ha bruciato, Mittino, 3, 2, uno il suo più 2 altoparlantini mi ha bruciato. E quanto usciva, scusa, il voltaggio? Il voltaggio sono i suoi 6 volt, li tira sempre fuori, non è un problema i 6 volt, perché questo qua lavora in classe AB come finale. Ah, cosa gli arrivava? Gli stava arrivando roba strana e bruciava gli altoparlanti, capito? Perché praticamente succede, se conosci questi finali, sull'altoparlante devi mettere, perché questo lavora, se guardi la configurazione di questo finale, il TDA mi sembra 1905, se guardi il data sheet, vedi che praticamente all'uscita uno deve andare a massa la cassa e l'altro praticamente c'ha un condensatore, adesso non so lì da quant'era, l'ho cambiato, però in genere batte un condensatore da 100, da 220 microfarad, messo praticamente in serie al positivo, e se tu non metti quello oppure quello in corto, bruci gli altoparlanti al nastro. Ma era molto compromesso, anche per via del watt, mi sembra che dava più di 40-50 watt, insomma era troppo esagerato, infatti li avevamo anche abbastanza. abbassati. E poi, vabbè, adesso magari ne verrà anche di meno, però il radio va più che bene. Sì, io prima di metterli in mano gli ho fatto un allineamento come diceva il manual service, quindi c'erano le correnti biace che erano incasinate, poi c'erano alcuni altri valori erano incasinati sull'apparecchio X, quindi ho abbassato la potenza o, perché cosa ho fatto? Ah, in M dove con l'oscilloscopio intorno a meno 85 mi sei, l'85% dovevi avere ed era incasinato, un po' di parametri li ho ritoccati, ho detto ma non sarà quello, invece non era quello, erano altri problemi. Ah, Fabio, scusa. Dimmi. Non è che ti trovi per caso che la possibilità di staccare poi documentazione di un tale Wagner 510? No, io non so cosa c'ho, dovrei guardare. In linea di massima io quando servo uno schema lo cerco in rete, se non è roba che ho io, ma in genere trovo tutto in rete, è la verità. Tutto quello che ho trovato poco mi ha aiutato, ho trovato tre schemi, parlato da parecchio completamente diversi. E perciò chissà come ne uscirò. Beh, se mi trovo gli strumenti che mi mancavano al laboratorio e ci metterò a mano, pensavo che magari tu avessi, che so, la possibilità di avere un po' di materiale, come avevo io per tanto tempo. Là. Difficile, no, materiale così, schemi no, schemi in cartaccio non ne ho, se no dove me li metto? Dovrei guardare se in qualche cartella sul PC c'ho qualcosa, ma non lo so, se non gli ho messo mano non ce l'ho sicuramente, se non gli ho messo mano. E poi devi trovare, è difficile, se non trovi i manuali è un casino, vai a naso perché conosci l'apparecchio, oppure sono sempre quattro fesserie, quindi vai a lavorare su quei cavolo, sempre sui soliti componenti, no, se non c'è gli schemi, questo qua se non avessi avuto trovato gli schemi non avrei fatto proprio niente. Prima sto utilizzando il palmare. Sì, il tuo palmare, quello che c'era. Cioè, la radio, guarda, sono amplificato. E ho lavorato lì, c'è praticamente in uscita, ho lavorato su... Io credo, così ho detto l'altro giorno che gli ho fatto la modifica, che spingeva un 30% in più, capito? Così mi hanno detto, io poi non, da questa parte non lo so. Volendo si può lavorare ancora, ma va bene così, dai, tanto poi alla fine poi inizia a lavorarci e va a finire il feranno, lo so già. No, lascia, va bene, va bene. Dai, va bene, dai. Vediamo un attimino che se c'è Riccardino, saluto tutti e io me ne vado a letto, ho una stanchezza incredibile, poi magari prenderò sonno alle 3 quelle del mattino, però quello è un altro discorso. Ok, saluto Fabrizio comunque. Ciao Riccardì, ricordagli a tuo padre di portare quell'apparecchio da Roberto domani mattina, che poi già ci penso io a dargli un'occhiata. Lo metto già in macchina che era una festa, un pezzo d'accento a quello, anche io non mi ricordo niente cosa c'entra, ma quella è l'età. A un'ora. A me l'ha detto Tino. Vabbè. Dai, buonanotte a tutti e grazie delle quattro chiacchiere. E ci sentiamo domani, dai. Sì, io me lo metto in tasca, ma in tasca, in macchina, sperando di non confonderlo perché ho il gemello di questo che ho riparato anche a CTX e glielo devo consegnare. Sì, vabbè, se lasci il mic attaccato già si riconosce, sennò già non c'è problema, così mi faccio cambiare uno salvatore. Ma quello l'ha aperto che aveva problemi, poca roba, però quello già era semplice. Cazzo, pulito pulito dentro, era già stato riparato, però era pulito pulito, perfetto. Non era dentro la vasca da bagno, ma è quello. Va bene, dai. Una chiacchieratina così ho verificato che va bene, altoparlante non scalda, è tutto a posto, dai, già chiuso comunque, dai, ci sentiamo domani, dai, buonanotte, un abbraccio a tutti quanti. Per l'ultima prova, metti in vatta la messa, ho fatto una regolazione, prova. Adesso così c'ho il vatta manetta. Già si sente che stai andando a saturare un pochino, eh? È normale, io, ma vanno bene quando le tieni così, che poi loro danno lo stesso, però va meglio, dai. Scusate, aspetta, entro in posto che vado a sistemare il termo, questa roba la metto in macchina alla radio e sistemo anche altre cose che potrei apparare. Riccardino. Ciao Riccardino, ciao. Sì, va bene, Fabio, lascialo così, con la posizione dell'ideale, credo. Già va bene, dai. Ciao a tutti, buonanotte. Riprendi Lucaria. Luca. Ciao Fabio, dai, ci sentiamo, dai. Ciao Fabio, grazie comunque. Salutoni. Luca. Va bene, dai, ciao Fabio, ci sentiamo. Vabbè. Dimmi tutto. Adesso nella tua radio. No, vabbè, erano soltanto delle prove, dai, io sono di quelli, una volta che ha trovato giusto l'abbinamento non tocchi più, bisogna lasciare tutto e basta. Poi magari se c'hai altri baracchini fai le prove, cioè, ma una volta che ha trovato il giusto abbinamento sul baracchino e buh, non si tocca niente. Quella era soltanto una curiosità di quel microfono che ha modificato Fabrizio per Riccardino. Purtroppo qua non va bene, infatti me lo immaginavo anch'io, sono fatti per altri generi di cose. Ok, Tino, del 450 me ne avevi parlato tu l'altra volta, o sbaglio, confermi? Sì, te l'ho provato io e credo che sia ancora in casa, Perché me l'ha chiesto una persona, il prezzo era 55, così 5,50. Aspetta, scusa un attimino Riccardi, prima di entrare così di botto, come dici tu, c'era un questione corto, dovresti ascoltare un attimino prima di entrare e poi entri, ok? Non è un rimprovero, è giusto così. Mi stai dicendo Roberto? Che il prezzo era 5,50, il 45, più il microfono 60 e più l'alimentatore diretto di linea. Sì, dovrebbe essere scritto così. Adesso non ricordo il PS50, comunque mi posso informare. Non ricordo, non faccio dire. Non è per me, però hanno chiesto informazioni. Io l'ho visto su Marketplace, quella specie di gruppo che c'è su Facebook dove vendono delle cose. Sì, può essere quello lì. Tu l'hai conosciuto? Mi hanno detto qualcuno che è nuovo nuovo la parata. Guarda, io ti posso garantire al 100% che chi l'ha comprato non ha fatto uso, non ha fatto attività né radioamatoriale né in 27, l'ha comprato perché le piaceva, ma no, siccome io ce ne so, non sono stati pratici o buoni a fare delle regolazioni per quanto riguarda l'uscita della radio, l'amplificazione e quant'altro, quindi uscivano male, gli dicevo no, cambia, non va bene in 27, quello e quell'altro, va bene, sono chiuso, chiudiamo questo argomento, e quindi lui si è mezzo stufato di avere questa radio qua. La teneva solo ed esclusivamente perché le piaceva anche la ricezione, giustamente, e così solo a vederla più che altro, però quando entrava nel 27 che faceva un passaggio, tutti gli altri che avevano magari i baracchini un po' più scadenti, perché li conosco anche, le dicevano che stava andando male, usciva male, quindi lui lo parcheggiava. Ti posso garantire al 100%, non mi prolungo di più, che è una radio che non è stata sfruttata, quindi per me quei quattrini lì si rivale dal primo all'ultimo. Sì, sì. Un'ultima domanda, in 27 quanto tira fuori col baracchino? Ma soffre a tirare fuori 100 watt, però vabbè, e poi i watt sono relativi, perché se vuoi ti puoi aiutare, però l'importante è che la radio riesca a fare una bella timbrica, una bella voce, insomma, tutto in generale, vai. No, già l'ho sentito, qualcuno già ce l'ha senza far nome, già mi ha capito, e qua in frequenza secondo me va più che bene, e qualcuno non può piacere con lo strumentino digitale, però è carino, diciamo, e l'evoluzione del 440 in parole povere è aggiornato anche forse come memoria, o sbaglio Tino? Ma è un mito, tra 430 e 440, ma proprio del 450 andando e migliorando, come hai detto tu, a chi piace a chi no, se c'è la radio è analogica, non è che digitale è solo lo smicker. Sì, sì, sì, no, stato, no, ho detto le memorie dei canali, se lo vuoi canalizzare, quante ne ha? Più delle 40 o di meno? Guarda, non mi ricordo, forse c'è anche, non ricordo. Ok, va bene. E avanti Riccardino, prendi il mic, a te l'hai messo la radio a posto? Sì, la devo mettere dentro la macchina e mi stavo salutando, stavo dicendo che ero per me, lo so che Ah, ok, dai, no, pensavo magari mettessi solo la radio a posto. Dai, allora, buon corretti, buonanotte, dai, poi domani tuo babbo mi porta quella roba in officina e poi faremo in modo di fargli lavorare a Fabrizio. Non ti preoccupare, non è successo niente, capita spesso queste cose, spesso o raro, dipende dalla fortuna che c'è. La cosa importante è risolvere il problema, vedrai che Fabrizio te lo risolve alla grande, ti metterà in condizioni ideali di modulare come eri l'altro giorno. Ok, avanti Fabio per Riccardino e poi Tino, per saluto. Riccardino, salutoni, buon pomeriggio con tutto, tranquillo che le radio fanno così, un po' fanno colato, poi alla fine si risolvono sempre, perché non esiste apparecchio che non si possa riparare, ricordatelo. Salutoni dunque, ci sentiamo domani, avanti Tino. Ciao Riccardino. Ci si riescono le prossime, dai, buonanotte, tante cose belle. Salutami il tuo capo. Sì, ciao, ci sia domani. Che è rimasto qua? Tanto lunga. Siamo solo noi. Vabbè, prima una curiosità, che forse ho toccato volontariamente il mic, ma è troppo amplificata. Aspetta un attimo, aspetta, aspetta, riprova. Ah, è che tu hai la modalità Vox. No, non è sollevato, è normale. Bene, bene, no, perché sai, quando faccio delle manovre avvicinandomi un carrellino, io praticamente vorrei radio, quindi la metto comoda, ho toccato con la mano. Questo è uno dei picchi che devo fare radio, perché se tocchi qualcosa poi devi sempre stare lì a regolare. Però vabbè, se va bene va bene. Ma questo è quello che stavamo parlando noi poco fa, Tino? Sì. Col suo microfono normale, diciamo, quello amplificato. Un 60. Ah, oh, già va bene, bella modulazione, niente da dire. Molto amplificata, chiara e pulita. E mi hanno detto una cosa, non so, io sinceramente non l'ho mai provato, che è un po' più scomodo da passare dalla M alla FM, è vero questo fatto? Si conferma, il problema è un altro, è che finché si è vicini non c'è da fare niente. Di fatto sta in lontananza, perché se io dovessi passare per dire in FM mi dà, se non mi sbaglio, circa 5-7 watt, dai, diciamo. Al contrario, che devo rialzare, allora devo fare un aumento, ecco. Ma scusa, il 440 se passa l'FM va a piena potenza, questo è il contrario, se la abbassa la potenza, così? Effettivamente sì, praticamente dovrei lavorare sul carrier per poter andare in FM e aumentare tutta la bandana, e lì supera anche il 100. Ah, è solo quello il problema? No, perciò il problema nel senso di menu, che dovevi entrare in sotto menu e cosa del genere. No, per niente, no, io guarda, adesso giusto per farti capire, non so se sei presente la radio com'è, no? A quei quattro pomellini in basso a destra. Sì, più o meno, dai. Praticamente il PVR lo lascio tutto aperto, il mic gain in base alla regolazione che decidi tu, l'amplificazione del microfono, e poi c'è questo carrier che va regolato. Praticamente io ce l'ho adesso a due. Se dovessi passare in FM dovrei aumentarlo per aumentare il VAT. La 44 è il contrario, appena commuti in FM va a piena potenza, 100 watt lo devi ridurre il carrier. Sì, le regolazioni sono solo quelle, non ti credo che sia una cosa, anzi, io ho fatto un buon ricevitore, ha dei filtri, insomma, è una cosa per me superiore, poi ognuno la pensa come un piacere, cioè a me piacciono entrambe le radio, però questa secondo me è un gradino in più. Al contrario dello smittere, giusto per farti capire, se non ti piace l'effetto digitale, insomma, è quello il becco, ecco. No, già bello comunque, dai. Ok, vai Fabio, riprenditi il mic. Capo, ascoltavo con piacere i discorsi. Mi piace molto sentire e disquisire di apparati, anche se magari non conosco bene o che non mi ricordo. E poi di quella marca lì ne ho uno nel cuore, prima o poi, boh, lo riavrò, magari per non usarlo, però dopo, il 680. Nella radio, ho detto. Quello l'ho avuto e sì, l'ho avuto per le mani, ho tenuto in mano un sacco di volte. perché ho temuto che non fosse di mano buona, nel senso che magari l'avessero rubato e me ne sono proprio sbarazzato in prima, figurati. Proprio quando l'ho avuto io, il mio, mi sono dovuto mettere certe domande, hai capito? Ma prima o poi lo riavrò, so. Quella è stata la mia seconda radio, però il 140. La mia prima radio stazione fissa era un Midland A48 con il più 5 e il B131. Così, la mia prima radio fissa, B131, va bene. Poi siccome io abitavo alla Provocio, no? Le antenne crescevano come funghi e prendevo colpo da tutte le parti, quindi è durata poco quella stazione lì. Sarà durata forse un mesetto e avevo comprato un nuovo subito il 140. Ah, e sì, no, un'altra cosa, un'altra musica, c'è niente da fare. Prima di avere quello, io giusto le 7250 riuscivo a utilizzare qui intorno, perché proprio a 20 metri da me c'è un'antenna che mi fa ombra, capito? Vabbè. Avanti, chi è? Buonasera. Buonasera, come vi senti ora? Con le orecchie sempre, certo. Tu che va bene, dai. A voglia, bella amplificata, forte. Sto usando il famoso ottavo in più 3000 tavolo. Non vuoi urlare, che ti sento bene lo stesso. Anzi, se urli vai a sporcarla la radio. Ma sto parlando piano. Ma male. Aspetta, guarda se mi ruba radio così. La radio me la sta rubando? Per niente, è migliorato tantissimo. Strano, mi hanno detto che la radio fa schifo, è troppo metallica. Ma vabbè, dagli conferma, io per me va bene. E poi, vabbè, dipende anche da chi ti ascolta come ti ascolta, ma io dico sempre questo, poi io ti sto ascoltando adesso bene perché la mia situazione di ascolto è questa. Vabbè. Aspetta, forse abbiamo un po' l'attenzione. Avanti, Franco, è quello del Franco di Sorso. No, io sono Tonino. Ah, Tonino, cioè, ho capito Franco, infatti ho detto, non mi sembra Franco, ho detto di meglio. No, Tonino ha detto. Ti arrivo, vabbè. Scusa Tonino, infatti ho detto, mi sembra Tonino, poi ho capito Franco, No. Allora, il segnale è fortissimo, qua sei arrivato a 9.20, hai fatto un salto da 9.10 a 9.20. La radio, se voglio essere pignolo, è 5, però leggermente metallica, lo confermo anche io. Cioè, tonalità un po' ricche, tonalità medio-alte, è un po' meno di basso. Vabbè, il microfono è questo, ho capito. Aspetta, abbassare un po' questo. Ecco, adesso ho calato un po' di radio, poco. No, quant'anno era originale o gli ha fatto modifiche, Tony? Nulla, originale, made in USA. Adesso questo fischietto cos'era? Qualcosa è in esco? Io mi sono apportato poco fa. No, la radio, ti ripeto, guarda, non deve essere una critica di cosa, però io faccio sempre un riferimento alla voce naturale di una persona, alla risposta delle corde vocali, dai. La radio è chiara, pulita, però la sento tipo equalizzata, non è una modulazione naturale, però la vorrebbero tanta gente una radio così, in confronto a molte altre è molto molto meglio. Però io sono di quelli che a me piacciono le radio naturali, senza esaltazione di frequenza, è proprio neutre. Questa c'è un leggero, diciamo, un po' carenza di bassi, un po' esaltate le tonalità medio acute. Sì, non riconosce a me comunque, non so se ricorda la voce mia. Sì, va bene, lascia così. Per fare una cosa, toglilo, stacca e attacca che ti dico di quanto venti. Ok, allora, si è attaccato. Attaccato. Fai da 9.5 a 9.22, quindi tieni conto. Tu che zona sei? Sì. Periferia, la Provocio, dai, non fosso. Ma io sono dopo San Camillo, dai. Capo, tu pensa che sei mollato, se 9.5 vai a 9.17, dai. Adesso sto di nuovo come poco fa, dai. 9.22. Anche a me superi 9.20, dai. Una domanda, quanto ne stai dando di coso, di cioccolatini? 80. Solo, cazzo, sale parecchio comunque. Da 9...